Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ripeti un attimo la tosse. Non so se questa tosse è secca e stizzosa. Ma quale è secca e quale è stizzosa? Stizzosa. È tosse e basta, capo. No, no, c'è no? Tosse e tosse. L'influenza, per essere influenza, deve presentarsi sotto forma di tosse secca e stizzosa. Guarda che sono notizie fresche fresche che riguardano il virus dell'influenza di quest'anno, non me lo invento mica io. Ma cosa vuol dire, scusa? Che c'è la... definizione ufficiale di influenza. Eh sì, Drago, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato la... definizione ufficiale di influenza. Ascolta bene, guarda, ce l'ho scritto qua. Come si presenta l'influenza? Allora, febbre che sale bruscamente, comparsa di dolori muscolari. Come al solito, insomma. Problemi respiratori come raffreddore, mal di gola e raucedine. E poi tosse. Tosse secca e stizzosa. È abbastanza stizzosa. In effetti oggi le classi sono deserte, Cap. C'era la prima ondata di influenza della stagione. Non stai bene. C'è un mare di giustificazioni. Sì che sto bene. Ma, anche sospette. Ma volte. Cosa dici? Sospette. L'influenza c'è. I bambini stanno giustamente a casa. Non so, però già si chiacchiera su alcune assenze sospette. Sembra che ci siano delle firme false. Ma. Però ne parleremo più avanti. Adesso concentriamoci sull'influenza. Sì. Allora, innanzitutto le bambine e mamme all'ascolto dovrebbero sapere che l'influenza ai bambini serve per rinforzare il sistema immunitario. Quindi, anche se all'asilo c'è un'epidemia, voi il bambino lo dovete mandare lo stesso, aspetta, chiaro? Guarda che Drago, prima di lanciare certe campagne faresti meglio essere sicuro di quello che dici, perché... Così è, Kappa. Guarda che nei primi 3 anni di vita avere 7-8 influenze in un inverno è normale. Quindi basta con gli allarmismi sull'influenza. I bambini vestiti da palombari, accompagnati da genitori vestiti da palombari, sono la fotografia esatta dell'Italia timorosa di ammalarsi e che poi fa pure le firme false sulle giustificazioni per stare a casa. Tu la fai facile. In realtà l'influenza è una piaga terribile, Drago. Lo dicono anche in televisione, al telegiornale. L'influenza torna a mietere le sue vittime. Sono già oltre 10.000 i casi di anziani e bambini costretti a letto dal virus influenzale. I primi sintomi nel 94% dei casi sono la tosse, il raffreddore e il mal di testa. Nel 4% dei casi invece le prime avvisaglie del male sono costituite dall'aumento della sudorazione dei piedi, la comparsa di lentiggini sul naso e la perdita dei capelli dispari. Il restante 2% accusa crescita esponenziale delle unghie, delle sopracciglia e incapacità a contare le pecore prima di addormentarsi. Le immagini che stanno passando sullo schermo sono relative all'influenza del 1987, ma non dovrei dirvelo. Gli anziani di queste immagini sono già quasi tutti morti. Il primo è morto un'ora dopo le riprese del telegiornale di allora, travolto da una barella. Pronto? Sì. Scusate l'interruzione, ma mi dicono dalla regia che l'ultimo degli anziani è morto un minuto fa, vedendosi in televisione e non sapendo di essere in ospedale pur trovandosi in casa propria. Il medico che maneggia la provetta in questa sequenza invece ha già cambiato lavoro, ora è istruttore di deltaplano, dice che rende di più e si lavora di meno. Anche le immagini dal microscopio non hanno niente a che vedere con il virus dell'influenza, ma visto che nessuno di voi ci capisce niente, vanno bene lo stesso. E infine le precauzioni: stare al caldo, non bere bevande gassate, non accettare caramelle dagli estranei, stare lontano dalla portata dei bambini. Comunque tranquilli, contro l'influenza c'è sempre il vaccino trivalente, composto da un antigene analogo al ceppo A Nuova Caledonia 2099, un antigene analogo al ceppo A Fujian 411-02 e un antigene analogo al ceppo B Shanghai 36102. Vabbè, tutti virus asiatici. Come da tradizione. Vabbè, ma io sono eurocentrico, possibile che non esista una bella influenza europea, che ne so, un'influenza belga. No, Drago, esiste l'insalata belga, non l'influenza. E poi l'ultima influenza europea di un certo peso non ha lasciato buoni ricordi. Qual è? È la spagnola, 1918. 30 milioni di morti. È morto. Allegria! Ricreazione. Eh sì, eccoci, finalmente liberi di fare qualche domanda sul caso delle firme false. Ma giochiamo, non sei interessato? A pallone una volta. Ma che pallone? Ma cappa! Bisogna indagare sulle firme false delle giustificazioni. Capito? Non vengono all'asilo, si fanno firmare tutto. Sembra siano state firmate tutte dalla stessa persona, hai capito? Allora chiediamo al bambino albanese se ne sa qualcosa. Bambino albanese! Andateci piano con l'albanese. Perché? Ma perché qui sulle nazionalità non si scherza. Vabbè, ma insomma, albanese non è mica un'offesa. No, perché se un bambino albanese sente che mi chiamate albanese, è quello capace che gli gira storta, eh? E poi mi mette le mani addosso, eh? E quelli erano, allora, eh? Bambino Alberto, calma, gli albanesi non arrivano. Comunque, Albertuccio, tu sai qualcosa di questa storia delle firme false? Ma io non c'entro niente. Come? Così. Non è proprio la frase che dovevi dire, eh? Beh, perché? Cosa c'è? Cioè... sembra che tu abbia un po' la coda di paglia, eh? Ma no, che coda di paglia? È che qui è tutto il giorno che stanno trocchiando tutti per questa storia delle firme false. Allora c'ho già la risposta pronta, no? Sarò lecito di essere un po' scostanti, no? Vabbè, sì, però, qui c'è una, perché qui c'è un'atmosfera opprimente. Vabbè, ma voglio dire, Albertuccio, sembra che dietro ci siano dei soldi. Cioè, uno dei bambini che sa scrivere si è offerto di firmare giustificazioni a tutti in cambio di soldi. E bambini che sanno scrivere non ce n'è tanti. Vero, bambino Alberto? Vabbè, lo chiedete a me. Non lo so, tu sai scrivere? Io no. Ma come no, scusa. Scusa. Sai leggere? Perché leggevi moccio. Non c'entra leggere! Poi mandi gli sms. Bravo. Senza il T9, anzi no, col T9. Vabbè, ma lì parlo a sigle. Vabbè. E poi c'è anche la questione del grano. Il grano. Insomma, tu i soldi, tu sei sempre interessato ai esatto. soldi, Ok, cioè, vabbè. Se c'è stato del grano dietro, sono i sospetti. Vabbè, allora, tutto a caso fosse stato davvero io. E voi come fate a provarlo? No, vabbè, adesso aspetta, non è che stiamo nemmeno ancora dicendo. Bambino Berengario, una cosa. Mica avrete mano un video dove che mostra me mentre firmo, no? Vedi, c'hai un po' la coda di paglia, ce l'hai, però sono mica risposte pronte queste. Il video. Vabbè, la perizia del tribunale dice che è la stessa mano. Esatto, proprio quello. Invece a me sembra che sia solamente la stessa birra. Ah, vabbè, sì, sì. Ma... la stessa mano, come si fa a dire, dai? Vabbè, guarda, queste parole mi ricordano quelle del bambino Formigoni, non so se è una mia impressione, ma questa della stessa birra. Basta con sta storia, eh? Una volta passata una firma, e non si tocca più. Ah, no? Tutta sta storia, tutti vanno a cercare i vecchi faldoni, le inesattezze, i vizi di forma, ma basta! No, non è così! Qui stiamo un po' esagerando, no? Qui si sta creando un clima forcaiolo! Quindi sei stato tu. Diciamolo. Dai, ammettilo, cioè, tutta sta roba sei stato tu. Hai fatto le firme false in cambio di soldi. Querela? Ma cosa stai dicendo? Tu hai fatto le firme in cambio di soldi, dillo, tanto siamo qui, mica lo vai a dire alla direttrice, allora, scusa. Dimmi. Qui lo dico e qui lo nego. Ah, ok. Ma le prove dove sono? Oh, mamma mia. E poi voi due che accusate, siete poi così puliti? Sicuri? Vabbè, puliti, ma cosa vuol dire, Albertuccio? Stiamo parlando... c'è prova di dossieraggio! Ma no, stiamo parlando delle firme false, che dossieraggio? Insomma, stiamo parlando di quello, finiamo il discorso. Allora, sei stato tu o non sei stato tu? Cosa c'entra? Qui stiamo parlando di... in generale! Ma come in generale? Che possa essere stato io o meno? Ma è una domanda diretta! È solo quisquilia, perché poi quello che conta... sembra il bambino rotondo. È l'impianto generale, no? Dell'idea, del pensiero! Ma come? Che qualcuno possa farlo meno! Ma vabbè, l'hanno fatto, firme false! Comunque devo andare? Ma come devi andare? No, adesso non vai da nessuna parte, ce lo dici, chiudiamo sta cosa, sì o no, poi dai! Uè, ho già detto abbastanza! Chi vuole capire ha capito. E credo che non ci sia nessuno qui dentro. Ma come qui dentro? Siamo nel cortile. Qui, che possa dirsi più pulito di me. E non sono l'unico a crederlo. Purtroppo per voi. Lo so chi è. Il solito bambino Bettino che dice queste cose. Mi chiamo Alberto, non Bettino. Ma non Bettino, tu Bettino, un altro Bettino. Bettino... Bettino da Hammamet. Ah, come Gesù di Nazareth. Beh, insomma, più o meno. Non credo che ci sia nessuno in quest'aula che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. E ora, bambini, e la sonnellino. Scappa, zitto, adesso si dorme. Ma come? Sì, non hai sentito suor Dentona che lo diceva prima? C'è il sonnellino. Che palle. Dai, su, dormi e non disturbare, dai. Vabbè, ma basta, scusa. Come faccio a dormire se tossisci in modo secco e stizzoso anche? È l'influenza. Stizzoso poi. Dai, ma potevi startene a casa, scusa. Te l'ho detto che l'influenza serve e con l'influenza non bisogna stare a casa. Tu dormi e non pensarci, no? Vabbè, ma come si fa a dormire con te che sembra che stai per vomitare? Beh, in effetti. In effetti cosa? Io non mi sento tanto bene. Che schifo. E all'asilo si vomita. Drago. Oh, sai che all'asilo si vomita un casino, eh? Sì, ma almeno girati dall'altra parte. Dormi, ti ho detto. Torniamo domani. Domani, magari, se non muori. Chiedo asilo.